Tanto per cambiare sono in treno, seduto già da un pezzo perché un'antica e oscura inquietudine da viaggio mi spinge ad occupare il mio posto con almeno mezz'ora di anticipo. Lo sto leggendo. Un'ombra ansante mi si para improvvisamente di fronte e si siede. Ne sbircio per un attimo le pacifiche intenzioni, mi riassetto sul mio posto per quel tanto che può significare la disponibilità mentale a fargli spazio fisico che peraltro rimane esattamente quello di prima, e mi rituffo nelle mie letture. Con un sospetto, tuttavia. Quella faccia l'ho già vista. Lascio passare qualche decina di secondi e decido di recitare la pausa. Un respiro più lungo, chiudo il libro dopo averci messo il debito segno, mi carezzo le palpebre che sono calate sugli occhi, come se riflettessi, come se la lettura mi avesse concettualmente, fisiologicamente provato. Lo guardo, sì, quella faccia l'ho già vista, certo che l'ho già vista. Eh sì, è un campione della sinistra infeltronita, uno capace di grandi slanci di solidarietà nei confronti di chi ha un buon conto in banca, uno che quando appare in televisione, un giorno sì, un giorno no, si guadagna la mia più solerte deprecazione. È lui. Questo caso è di facile soluzione, ma si iscrive a buon diritto in una tipologia di casi di fronte ai quali spesso non so come comportarmi. È il problema relativo all'incontro casuale con la persona nota, con il personaggio, con chi si porta appresso una fama e dunque vive in pubblico una vita diversa da chi invece può sguazzare nell'anonimato. Lo si saluta o lo si lascia scorrere via come uno sconosciuto qualsiasi? Nel caso dell'altro giorno in treno non ho avuto dubbi, finalmente potevo prendermi almeno la soddisfazione di non riconoscerlo, sperando che il suo amor proprio ne avrebbe sofferto. Da Milano a Firenze ogni tanto me lo guardavo, lui se ne accorgeva, il mio occhio scorreva sui suoi lineamenti senza titubanza alcuna, come se vedendoli per la prima volta non ne constatassero tutto l'intrinseco anonimato e la povertà che li caratterizzava. Giorni prima, tuttavia, mi ero trovato alle prese con un problema di questo tipo e con maggiori incertezze sul come risolverlo. Con Anna stiamo aspettando che un semaforo si faccia verde per noi e dall'altra parte notiamo, impegnati nella medesima attesa, un signore con una ragazzina. Viene il verde, compiamo i primi passi gli uni verso gli altri e ci rendiamo subito conto che il signore è un noto attore, un comico non dozzinale, uno qui dalla posizione di semplici spettatori disinteressati è difficile voler male. La ragazzina sarà la figlia. Salutiamo, facciamo un cenno di riconoscimento e versiamo il nostro tributo di simpatia o proseguiamo diritti? Ne abbiamo poi discusso a lungo. A lui magari seccherà di essere riconosciuto per la strada, probabilmente non vedrà l'ora di poter passeggiare per le vie della città come un cittadino qualsiasi. Ma la presenza della ragazzina modifica comunque le carte in tavola. A lei farà probabilmente piacere che il suo papà venga riconosciuto e riscuota almeno un briciolo della simpatia seminata. A lui farà probabilmente piacere che sua figlia abbia questa gratificazione. Quando ci si vuol bene, si gioisce della gioia dell'altro. Da che parte sta scritto poi che sia una forma di rispetto non riconoscere qualcuno che si conosce benissimo? D'accordo, l'attore qui non sta facendo il proprio mestiere, ha tutto il diritto alla sua privatezza, ma chi è in grado di determinare precisi e visibili confini che distinguono l'ambito della sua privatezza da quello della sua pubblica funzione? Qui di fisico, ancora una volta non si può tirare in ballo nulla, perché è questione tutta mentale. Come sempre, se c'è disponibilità all'interazione, tutto bene. Se questa disponibilità non c'è, sia la serata della prima, sia nel camerino, sia all'uscita dal teatro, o sia a 800 km di distanza, se la disponibilità all'interazione non c'è, tutto male. Anche un timido cenno di saluto sarà di troppo. In materia ho anche un piccolo ricordo personale. Anni or sono, una sera vado all'inaugurazione di una mostra. Mi affaccio nel grande salone della galleria d'arte e constato che c'è una gran folla. Titubo sulla soglia. Improvvisamente sento un trillio di voce e, fendendosi in varco, avanza verso di me una signora con gli occhiali in décolleté accentuato. Mi guardo alle spalle perché non dimentico mai quella scena della febbre dell'oro in cui Charlot entra nel saloon e la sua bella gli si fa incontro, lui chiude gli occhi per godersi l'agognato abbraccio, ma lei prosegue oltre per fare abbracci e baci con uno dietro di lui. Mi guardo alle spalle e non c'è nessuno. Il salutato ospite sono proprio io e mi godo i fasti psichici dell'essere riconosciuto e dell'essere accolto, fosse anche da una sconosciuta, anzi no, meglio se da una sconosciuta, perché se essere riconosciuto da uno che già conoscevi vale uno, beh, sul conto dell'amor proprio, essere riconosciuto da uno che non hai mai visto vale 10. Lei sorride, mi prende per un braccio, fa un cenno agli astanti come se fosse ora di farmi largo, sembra proprio contento che io abbia accettato l'invito e che sia lì, e infatti me lo dice: sono proprio contenta che sia venuta fra noi, carissimo, e fa un nome che non era il mio. Mai riempirsi di futili soddisfazioni, mai godere delle vanità connesse al pubblico riconoscimento, diffidare comunque di chi porta gli occhiali.